Partito in Svizzera con 5 compagni a cercare il riscatto dei nostri 20 anni. L'ultima notte con Bianca Maria, il ventero ricco ti portano via. Certo che fare il minatore non si guadagna poi tanta d'ore. Mi sono trovato davanti a uno stagno con Peppe Lucigno, noiosa di grasso. Un colpo di testa, nessuno ci sente. Il tuffo lo prendo, resto sintendo. Con quel cigno che soddisfazione, rotto il digiuno, poi sai che sapore. Io non so chi sia stato, se avran visto o ci avran denunciato. Oppure nel pessimo e senza premura, o primo di più nel calar della luna. Due guardie ci presero dritti in caserma, non da mucchini senza protesta. Tanto gentili non ci han denunciati, almeno in galera ci avremo stamati. Gente garbata, nessuna domanda, parto un rovescio, mi sonda la faccia. Nessun terzo grado, tanto discreti, un calcio poi un altro, che scherzo da preti. Ho perso 3 denti ed erano cariati. Pensa che ride quando ci han rilasciati. Mi han detto vada, io con vista contorta. Entrai nell'armadio, presi un'altra per porta. E tu che aspetti il mio riscatto? Attendo in vano perché non c'è stato. Son tornato in Italia, ma sai come il tempo. Bianca era sposa ed io ero vecchio. Trairalai, la lai, la lai, la la lai, la lai, la lai.